Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Siamo nella settimana degli esami di maturità, un momento importantissimo che tutti ricordiamo, dopo il quale i ragazzi si affacciano al mondo difficile ma anche affascinante che sta al di là dei banchi di scuola. Dopo gli ultimi passi nel mondo della scuola si apre un percorso fatto di altri passi più impegnativi, forse che li porterà ad entrare nel mondo del lavoro, un mondo sempre più difficile. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione in Italia giovanile che è elevatissimo e proprio per questo necessita, nella fase di scelta del percorso che segue gli anni delle superiori, di un progetto pensato con attenzione, senza dimenticare i sogni e le ambizioni, ma restando anche possibilmente con i piedi per terra. Alcuni sceglieranno di intraprendere il percorso universitario e la laurea, lo sappiamo, è un investimento a tutti gli effetti e lo si percepisce ancora di più in un periodo in cui le risorse economiche delle famiglie italiane sono davvero risicate. Tanti gli aspetti da prendere in considerazione, dalla scelta del corso e dell'ateneo ai costi necessari che si devono sostenere per i trasporti, per l'eventuale trasferimento, le agevolazioni fiscali possibili da tenere in considerazione, le borse di studio. In corrispondenza con l'uscita stamane della guida pratica del Sole 24 Ore che affronta proprio questi temi, Salva Danaio torna ad affrontare questo argomento rispondendo anche alle domande degli ascoltatori. Quale la scelta migliore? Come indirizzare il proprio figlio? Quali le facoltà che garantiscono, stante la situazione attuale naturalmente che continua in continua in evoluzione, che garantiscono maggiori sbocchi, quali le possibilità di un aiuto per sostenere le spese e per avere qualche agevolazione fiscale. Intanto vi ricordo il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire, interagire con noi, è l'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666 e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook salvadanaio-radio24. Con noi questa mattina la collega del Sole 24 Ore, Federica Micardi. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Tra le colleghe che hanno coordinato appunto il rapporto, la guida che esce questa mattina, il professor Andrea Cammelli, che ho finalmente il piacere di ospitare qui in studio a Radio 24 qui a Milano, direttamente da Bologna, direttore di Alma Laurea. Buongiorno. Buongiorno, il piacere è anche mio. Ecco, molto bene, la ringrazio. Grazie. Poi abbiamo collegati telefonicamente, li saluteremo in un secondo momento, il professor Giuseppe Catalano, professore ordinario di economia pubblica alla Sapienza Università di Roma, e Luciano De Vico, esperti in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Allora, vi ho già raccontato naturalmente il tema di stamattina, le modalità per intervenire con noi, per interagire con noi. Solo una rapida occhiata alla borsa, perché questa è una giornata cruciale. Aspettavamo con grande ansia l'esito delle elezioni in Grecia e naturalmente la reazione della borsa. La reazione è incerta, gli indici sono partiti bene, poi ci hanno ripensato, adesso di nuovo tentennano, c'è un quadro positivo ma davvero senza entusiasmo. Londra più 0,27%, Parigi più 0,41%, Francoforte più 0,89%. Le principali piazze erano anche passate in negativo per poi recuperare, e mantiene il territorio negativo Milano, FTSE MIB meno 0,89%. Segnaliamo che però sei grandi società staccano oggi la cedola a Piazza Affari, questo stacco pesa per l'1,2% sul listino e quindi al netto di questo in questo momento Milano sarebbe positiva per lo 0,3%, quindi ancora una volta Milano è quella che risente di più delle tensioni sui paesi periferici dell'Eurozona. La borsa di Atene andava molto bene in apertura più 6%, adesso vediamo quale esecutivo si potrà formare, se si riuscirà appunto a garantire una certa stabilità a questo paese. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di stamattina. Federica Micardi, immediatamente l'ABC, il biglietto da visita della guida che esce oggi con il Sole. La guida che esce oggi non è una novità, sono ormai anni che Sole 24 Ore monitora l'offerta universitaria di tutti gli atenei. Ci sono nella guida, ci sono, noterete che c'è un ampio spazio dato alla preparazione all'estero, ai corsi di lingua inglese, perché anche l'università italiana nel tempo si sta un po' esternalizzando, e da quest'anno c'è anche la novità che gli affitti per gli studenti anche all'estero potranno fruire di un'agevolazione fiscale, cosa che fino all'anno scorso non era possibile. E la guida è strutturata, è divisa in due parti, c'è cioè l'elemento cartaceo che appunto trovate oggi in edicola, dove vengono presentate le offerte, dove si entra nel merito dei vari settori disciplinari, dove c'è una panoramica di quella che sono le possibilità di lavoro offerte e anche dell'andamento dell'offerta dei corsi, quali sono in aumento, quali sono in calo, eccetera. Una parte poi appunto è dedicata alla spesa, all'eventuale possibilità di avere borse di studio, a suggerimenti su come trovare l'affitto e anche al trattamento fiscale. La guida si completa con la guida online, quindi uh-huh. Sull'online troverete la mappa di tutti i corsi offerti dalle università statali, dalle università private e dalle università telematiche. Sempre online è possibile vedere quali sono i corsi che danno la possibilità di ottenere un titolo riconosciuto anche all'estero. Questo è un elemento di valore aggiunto, perché chi ha mire per appunto studiare anche all'estero facilmente può trovare quali sono gli atenei, che peraltro quest'anno sono il 60%, sono in aumento rispetto all'anno scorso, che danno questa possibilità. Ovviamente possibilità che non è automatica, cioè uno si iscrive al corso e poi dovrà superare dei test di lingua piuttosto che per poter, però il fatto che ci sia questa possibilità è già un vantaggio rispetto a un tempo. So che c'è la possibilità, come sempre, per i lettori di inoltrare dei quesiti e c'è il solito pool di esperti che poi risponderà nel corso nei prossimi giorni, sia sul quotidiano che poi sul sito, no? Assolutamente sì, infatti il forum online è aperto fino a questa sera. Ci sono quattro tipologie di domande che si possono fare: le prospettive occupazionali, qual è il riconoscimento dei titoli e le varie classi di laurea, perché magari per chi vuole passare da una classe all'altra, sapere se è fattibile, a quali condizioni, eccetera. L'elemento fiscale, quindi le detrazioni e gli sconti fiscali a cui di cui si può fruire, e le borse di studio. C'è stata una contrazione della possibilità di ottenere borse di studio perché i soldi sono meno rispetto a quelli dell'anno scorso, comunque esiste questa possibilità e noi nella guida ne diamo conto e spieghiamo come fare, come funziona, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che ci sarà oggi pomeriggio dalle 5 è questa video chat sulla scelta dell'università. Partecipano tre persone, estremamente presenti nel contesto universitario. Uno è il nostro dottor Cammelli, che è qui accanto a noi. Il secondo partecipante è Alessandro Rimassa, che è l'autore di Generazione 1000 Euro. E poi c'è Andrea Sant'Agata, che è l'editore di studenti.it. Quindi, abbiamo messo in campo più strumenti per riuscire a orientarsi. Allora, nei prossimi giorni sicuramente vi seguiremo, ma vi seguiranno soprattutto, immagino, le famiglie che proprio in questo frangente, mentre stanno iniziando gli esami di maturità, gettano uno sguardo oltre a questo appuntamento, sperando che naturalmente tutti possano avere la miglior promozione possibile con buoni voti e quindi già iniziare bene il percorso universitario. Federica, grazie per essere stata con noi e buona giornata, naturalmente. Grazie a voi. Allora, professor Cammelli, intanto magari un altro biglietto da visita è necessario farlo alle famiglie che ci ascoltano, che cos'è Alma Laurea, così anche per sgombrare un po' il campo da tanti equivoci che qualche volta nascono intorno al lavoro del professore universitario, che non stacchino sui libri solo ed esclusivamente dalla mattina alla sera. Voi vi preoccupate anche di far incontrare l'università con il mondo del lavoro. Sì, non solo. Alma Laurea l'abbiamo fondata nel 1994, quindi tanti anni fa, con tre obiettivi. Il primo è quello di conoscere meglio e di più la qualità del prodotto finito dell'università, passatemi questo termine, ma insomma era importante conoscerlo anche in tempi brevi in modo tale che servisse per orientare i giovani che dovevano poi compiere la scelta. La seconda, io posso anche avere all'università il prodotto finito eccellente dal punto di vista dell'analisi interna, ma se poi questo prodotto finito lo trovo che non trova lavoro sul mercato del lavoro, è chiaro che dovrò pormi qualche problema. C'è qualche cosa che non funziona all'università, c'è qualcosa che non funziona nel mercato del lavoro, eccetera. Il terzo obiettivo che ci siamo dati è quello di favorire l'incontro fra domande e offerta, insomma, in modo tale che mettendo tutti i curricula dei ragazzi sul sito di Alma Laurea, oggi le imprese italiane e straniere possono scegliere. dire. Oggi quindi rappresentate anche un serbatoio importante per l'azienda. Importantissimo, faccio il conto che siamo diventati 1.600.000-700.000 curricula e negli ultimi 10 anni ne abbiamo cedute da aziende italiane e straniere oltre 3.500.000. Insomma, quindi è un potente strumento. Devo dire che ci sono anche verifiche importanti pubblicate negli Stati Uniti con lavori seri che in qualche modo confermano l'importanza di questo strumento. Ecco, al di là dell'azienda, la famiglia guarda il lavoro che fa il vostro osservatorio per cercare di intercettare quali sono le principali esigenze dell'azienda e quindi in qualche maniera cercare di pilotare anche le scelte dei ragazzi? Che chiaramente hanno delle loro vocazioni, però bisogna anche essere molto realisti, sì. Più realisti del re in questo momento. Io spero che lo guardino molto e notiamo dalle consultazioni che la consultazione sta crescendo molto, molto da parte dei ragazzi, molto anche da parte delle mamme, da parte dei papà, eccetera, eccetera. E lo strumento che abbiamo messo in piedi consente in realtà al ragazzo, che noi sappiamo in partenza essere poco documentato sul mondo universitario e sul mondo del lavoro, anche perché abbiamo visto che praticamente fra l'80 e l'82% dei giovani, vengono da famiglie nei quali la laurea non è mai entrata, per cui c'è anche una carenza informativa da parte delle famiglie. Già questo sarebbe un grosso problema per noi, spiegare oggi cos'è l'università, ma per chi mai non l'ha fatta naturalmente il problema si complica. E allora abbiamo messo in piedi uno strumento che è liberamente consultabile sul sito naturalmente, che consente ai ragazzi di capire meglio, intanto individuare i propri punti di forza e i punti di debolezza. Colleghi psicologi hanno costruito questo strumento. Il secondo è più un percorso di carattere informativo, cioè sapere di più come funziona l'università e come funziona il mercato del lavoro. Il terzo è di grande aiuto sotto il profilo dell'orientamento, perché abbiamo individuato 29 materie che costituiscono la spina dorsale di tutti i corsi universitari. E in questo percorso, quando chiediamo al ragazzo dai un voto da 0 a 10 alle materie che vorresti approfondire all'università, il risultato finale è che tutto transita attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero e vengono restituiti i percorsi di studio in ordine decrescente di prossimità e proprio desiderata. E questo naturalmente aiuta attraverso una serie di elementi che sono di informazione sul profilo, sulle performance dei laureati di quel corso di laurea nell'ultimo anno e ancora della condizione occupazionale del medesimo a 1, 3, 5 anni, consente al ragazzo di capire di più e meglio qual è la propria vocazione, quella che sarebbe la propria vocazione, e quindi seguirla nei limiti del possibile. L'ultima tappa è una tappa importante che dice cosa vuoi fare da grande. E alle domande mi interessa guadagnare molto, mi interessa utilizzare le competenze acquisite all'università, mi interessa lavorare in gruppo, mi interessa eccetera eccetera, si dà la risposta esattamente che è quella che abbiamo ottenuto dalle indagini sulla condizione occupazionale dei loro fratelli maggiori che li hanno preceduti. Quindi restituiamo insomma un'immagine molto chiara, molto limpida, molto trasparente, molto tempestiva di quella che è la situazione di oggi. È evidente che sul profilo del laureato sappiamo di poter lavorare a distanza di 12 mesi sostanzialmente, sulla condizione occupazionale c'è sempre punto interrogativo, perché è chiaro che il ragazzo che si iscrive oggi uscirà nella migliore delle ipotesi fra 4 anni, più probabilmente fra 6, e fra 6 francamente il mondo del difficile. Mercato del lavoro sarà rivoluzionato come tutte le rivoluzioni che abbiamo visto negli ultimi anni, e speriamo peraltro che la percentuale dei senza lavoro, che è già elevatissima sulla popolazione giovanile, appunto si fermi qua, ma al momento non abbiamo grandissime speranze di radicali miglioramenti, almeno nel breve termine, un anno, 2 anni ancora di difficoltà. Allora, oggi abbiamo ripreso un percorso che ogni anno facciamo grazie anche alla collaborazione con il Sole 24 Ore, che oggi pubblica la guida alla scelta dell'università, quindi una guida utilissima per tutte quelle famiglie che in questo momento hanno questo dilemma e magari vorranno cercheranno di accontentare quanto più possibile i desideri del proprio figlio, del proprio ragazzo, assecondando la propria vocazione, ma poi chiaramente si devono fare anche due conti, e quindi la scelta universitaria oggi deve mettere insieme una serie di tasselli tutti quanti molto importanti, economici oltre che naturalmente poi didattici e accademici. Stamattina ne stiamo parlando con il professor Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. Adesso sentiremo Giuseppe Catalano della Sapienza Università di Roma e Luciano De Vico. Prima però vorrei sentire anche alcuni ascoltatori. Antonella da Brescia inaugura il ciclo delle chiamate di oggi. Antonella, buongiorno. È una mamma, Antonella? Buongiorno, sì, io sono la mamma di una ragazza che non avrà la maturità quest'anno perché ha terminato la quarta liceo scientifico e l'avrà l'anno prossimo, ma mia figlia ha già scelto la sua università, sa già cosa vuole fare. Purtroppo, come dicevo alla sua collega, c'è l'enorme scoglio, almeno io parlo per quanto riguarda l'Università di Brescia, del superamento del test per entrare all'Università di Medicina. Mia figlia vorrebbe fare questa università, ci tiene tantissimo, è il suo sogno, è la sua vocazione fare il medico, ma sa già purtroppo che al primo tentativo non ce la farà. Perché è così scoraggiata? Di non essere presa sarà altissima, perché le dico che le modalità secondo le quali vengono fatti questi test sono estremamente fortuite, a detta degli stessi insegnanti universitari, che comunque non fanno nulla per, secondo me, togliere questo sistema di selezione sbagliatissimo, perché alla fine non sceglie i migliori. Una volta presi, questi ragazzi non vengono più selezionati, addirittura chi si ritira perché non ce la fa non viene più rimpiazzato da chi è stato escluso. E le dico che il numero di studenti presi ogni anno è sempre di meno, e noi sappiamo tutti che ci chiedono, cioè sappiamo che i medici servono, non ci sono, eppure l'unica barriera all'ingresso di Milano non ha accettato la richiesta del Ministero di prendere più studenti in medicina l'anno prossimo, perché loro si trincerano dietro, non abbiamo le strutture, non abbiamo le risorse. Secondo me, io non voglio essere cattiva o prevenuta, sono un insegnante anch'io, ma alla fine gli insegnanti universitari vogliono meno studenti, perché ovviamente il lavoro è molto più... è un po' più leggero, dice lei. Loro possono seguire altre cose. Io sono per una selezione sul campo. Il primo, secondo anno di università, i ragazzi vanno scelti sugli esami. Allora, Antonella, detto questo, a parte il fatto che noi speriamo che la sua ragazza naturalmente non si scoraggi, il tentativo lo faccia ugualmente, ha una seconda opzione sua figlia, qualora appunto decidesse, magari in virtù di questo, mi passi il termine, forse non è adeguato, pregiudizio che ha nei confronti della facoltà di medicina di Brescia, ha pensato a qualcos'altro, oppure magari tenterà in un'altra università? Ha un piano B? Sollevare il problema, perché guardi che il problema è sentito da tantissime famiglie. Le voglio anche dire, le spese che le famiglie sostengono per poter consentire a questi ragazzi di superare il test facendo corsi costosissimi, libri, acquistando libri costosissimi, le assicuro che è così, le assicuro. E questo è giusto nel 2012. Lo chiedo, giro la sua domanda, Antonella, grazie molto per la sua testimonianza, grazie molte ai diretti interessati, agli esponenti del mondo accademico. Allora, intanto per medicina è ovunque così, professor Cammelli, c'è il test d'ingresso in tutte quante le università? Ma il test d'ingresso c'è in tutte le università, ma a me risulta che è in fase di elaborazione un test identico per tutte quante le università, che deve essere utilizzato e fatto il medesimo giorno, per cui in futuro in realtà, e mi pare anche con alcune modifiche che sono quelle a cui faceva riferimento la mamma della ragazza, dico precedentemente, cioè la riduzione delle domande in qualche modo di cultura, dico generale se vuole, che sono apparse così. Io so bene che in una programmazione che guardi con attenzione alle necessità, dico, del paese, abbiamo bisogno sicuramente di più medici. Fino a qualche decennio fa si diceva che ne avevamo troppi, adesso improvvisamente in questa incapacità di programmare abbiamo scoperto che ne abbiamo pochi. E credo si è elevata tantissimo anche la professionalità degli infermieri, per esempio, adesso anche loro hanno bisogno di corsi di lauree triennali, se non sbaglio. Non c'è dubbio, con le lauree triennali in medicina naturalmente abbiamo sfornato negli ultimi anni una serie molto consistente, che non a caso troviamo ai vertici della condizione occupazionale, non solo ai vertici, da come mi pare che sia attorno al 90-92% che lavora dopo un anno, non solo, ma anche dal punto di vista sì retributivo, vedo che sono al vertice della gamma, diciamo così, delle retribuzioni a livello universitario. Allora, sentiamo anche gli altri interlocutori, anzi Luciano De Vico, gli risparmio ovviamente il commento sulla questione dei test d'ingresso a medicina, andremo con il fisco, con lui fra qualche istante, però vorrei dare il mio benvenuto anche al professor Giuseppe Catalano, ve l'ho già presentato prima. Professor Catalano, ci racconta intanto, ci dà la sua testimonianza dell'Università di Roma, che tipo di esigenze stanno rappresentando in questo momento le famiglie italiane, che tipo di vocazioni sono espresse da parte dei ragazzi e che tipo di consapevolezza anche rispetto al futuro sbocco nel mondo del lavoro? Ma buongiorno a tutti innanzitutto, la ringrazio di avermi coinvolto perché credo che sia un'opportunità molto importante e speriamo davvero di poter dare indicazioni utili agli studenti e alle loro famiglie, ma già questo, se vogliamo, è un piccolo problema iniziale. Se non ci fosse, come spesso dico, quella luce nel buio che è Almalaurea e non ci fossero le vostre iniziative, ancora troppo poco si fa per spiegare agli studenti cos'è l'università e come approcciarla. Le informazioni sono disponibili ma spesso in modo addirittura eccessivo e quindi disorientano interlocutori che non hanno, soprattutto nei giovani, gli strumenti adeguati. Il Ministero dell'Università ha fatto molto, ma credo che ancora di più si possa e si debba fare. Prima indicazione, e cerco di collegarmi anche alla domanda che è stata fatta precedentemente. La testimonianza dell'ascoltatrice. Sì, perché mi sembra un aspetto importante. Io credo che in generale, poi mi fermerò brevissimamente su medicina, ma perché ha già risposto l'amico Andrea, la presenza di test di autovalutazione, soprattutto quanto non sono diciamo obbligatoriamente selettivi, come nel caso di medicina e di altre facoltà in cui spesso per disposizioni europee vi è un vincolo al numero dei possibili iscritti, è un elemento di grande serietà dell'università. Io mi permetto di darlo come prima indicazione alle famiglie che ci ascoltano e agli studenti. Non è un elemento di vessazione, ma soprattutto, ripeto, quando il test non esclude dall'iscrizione, è particolarmente importante per poter orientare gli studenti attraverso un meccanismo di autovalutazione che è indispensabile. Purtroppo non tutti gli studenti possono fare tutto nella loro carriera universitaria ed è bene che se ne rendano conto con diciamo realismo il prima possibile gli studenti e le loro famiglie. Quindi in generale la presenza di un test di autovalutazione iniziale, spesso fatto molto tempestivamente, cioè addirittura l'anno prima rispetto al momento dell'effettiva iscrizione, è uno strumento molto prezioso. Naturalmente si discute molto sull'efficacia. Dove si possono fare questi test di autovalutazione, professor Catalano, tanto per essere molto concreti? Assolutamente, io cito l'esempio che conosco bene perché sono stato fino allo scorso anno professore al Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano consente presso le proprie sedi, non ancora diciamo a distanza, la possibilità di sostenere il test che in qualche modo consente la possibilità di iscriversi o evidenzia dei debiti formativi che lo studente deve recuperare. E naturalmente lo studente, dopo aver sostenuto il test, si autovaluta, riceve un punteggio che gli evidenzia il suo posizionamento. Se ha un punteggio superiore al minimo consentito, può avere già automaticamente il diritto a iscriversi al Politecnico di Milano nello successivo anno, naturalmente per i corsi che sono a numero limitato di iscrizioni, il punteggio fa anche da graduatoria e soprattutto lo studente può ripetere il test rimettendosi alla prova nel corso del tempo. Questo è un elemento che io trovo diciamo di grandissima importanza e dico che naturalmente in alcune università è molto più complesso realizzare in relazione alle dimensioni questo tipo di attività, ma anche alla Sapienza di Roma tutti i corsi oggi presuppongono un meccanismo di autovalutazione. Questo è un indice di serietà dell'università ed è uno strumento importante di orientamento degli studenti e delle loro famiglie. Si evita lo spreco sociale di iscriversi a corsi che le competenze pregresse e le effettive diciamo capacità degli studenti non consentirebbero di frequentare. Se io mi fossi iscritto a medicina, anche se mi avessero fatto iscrivere a suo tempo, probabilmente avrei perso tempo e viste frustrate aspirazioni che non potevo conseguire. Quindi certo, la presenza del test è un elemento fondamentale, la legge lo prevede obbligatoriamente. Non tutte le università lo propongono, perché naturalmente è un'operazione complessa e ovvio. Costosa. Professor Cammelli, un attimo, che voleva intervenire, poi la lascio concludere su medicina. No, certo, non possiamo dimenticare, dire anche ai genitori, questa è una cosa importante, a parte il fatto che dovranno sapere anche i ragazzi, che ancora oggi 18 immatricolati su 100 si perdono nei primi 12 mesi e si perdono in modo diverso tra facoltà e facoltà. A medicina se ne perdono molto pochi, appunto per via del test d'ingresso. In alcune facoltà scientifiche ne perdiamo il 25, il 26, il 27%. Quindi uno smacco e una perdita dal punto di vista anche economico e una mortificazione per i ragazzi che non possiamo permetterci di continuare. Quindi dobbiamo orientare di più e meglio come sta facendo oggi. Esattamente, poi bisogna anche vedere le motivazioni per cui effettivamente il percorso si interrompe. interrompe qualche volta, uno trova un metodo di studio anche radicalmente diverso rispetto alle superiori, non riesce ad organizzarsi da solo, qui poi ci sono anche chiaramente le questioni individuali. Allora, per introdurre le questioni fiscali chiedo aiuto a Riccarda da Verona, una nostra ascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per l'opportunità. Grazie a lei. Ecco, io volevo sapere, ho un figlio che sta facendo la specialità di medicina, cioè ha fatto i suoi 6 anni di medicina, è laureato e sta facendo la specialità in gastroenterologia. Ecco, lui percepisce una borsa di studio, come tutti i specializzandi, abbastanza consistente, sono circa 1.700 al mese. Bene, accontenti che se la meriti questo ragazzo. Prego? Se la meriterà sicuramente questo ragazzo. Ah, su questo senz'altro, forse solo per gli orari che fanno in turno, ma lasciamo stare. Io volevo chiederle se, mi hanno detto alcuni, che si può mettere a carico questo figlio, quindi avere detrazione per figlio a carico, altri invece hanno detto di no. Vediamo adesso che cosa ci dice Luciano De Vico. Esatto. Riccarda, intanto grazie e auguri grazie al nuovo gastroenterologo di famiglia. Luciano De Vico, allora, intanto partiamo con il trattamento fiscale delle borse di studio, perché mi sembra uno dei temi che vengono affrontati stamattina anche dalla guida del Sole 24 Ore. Sì, buongiorno a tutti. Le borse di studio sono di norma imponibili come i redditi di lavoro dipendente, tanto vero che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e possono quindi usufruire anche della detrazione prevista per questi redditi. Il percettore infatti riceverà anche il CUD e quindi se tenuto farà anche la propria dichiarazione dei redditi. Vi sono una serie di borse di studio che invece la normativa prevede, per cui la normativa prevede delle esenzioni, e tra queste c'è proprio quella dell'ascoltatrice. Tra le altre sono esenti e quindi non sono tenuti, non costituiscono reddito, le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento alle scuole di specializzazione, oppure le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. E quindi, per rispondere all'ascoltatrice, considerato che la borsa di studio è esente, quindi non costituisce reddito per il percettore e quindi è al di fuori dal reddito complessivo, il figlio può essere considerato a carico dell'ascoltatrice o dei suoi genitori in base alle quote spettanti per legge. In termini generali, invece, chi sostiene spese relative all'istruzione in proprio per un familiare a carico ha diritto ad una detrazione IRPEF, De Vico? Diciamo che sul fronte degli sconti, a fronte degli altissimi costi e dei più variegati, si pensi dai libri ai corsi di frequenza, cioè ai costi per la frequenza, eccetera, vengono concessi soltanto dalla normativa fiscale italiana 2 tipologie di sconti. Entrambe danno diritto a una detrazione del 19% dall'IRPEF, e si tratta da una parte delle tasse e dei contributi versati alle università. Vige il principio di cassa, per cui quelle pagate nell'anno sono detraibili dall'IRPEF, e per queste non ci sono dei limiti massimi per la detrazione. Dei limiti vi sono dei limiti oggettivi, vale a dire che il limite è il tetto entro cui calcolare lo sconto per i corsi universitari privati è costituito dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani, e quindi diciamo che la misura massima dei contributi e delle tasse versati agli istituti statali italiani vale anche di fatto per le università private. L'ultima indicazione, De Vico, perché purtroppo devo correre perché il tempo mi sta sfuggendo di mano, le questioni legate a chi va a studiare all'estero. Per chi va a studiare all'estero sono legate alle agevolazioni, oltre alle tasse universitarie, sempre nei limiti che abbiamo prima ricordato, sono quelle relative da quest'anno. È possibile anche la detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari, che è stata estesa anche a coloro che sono iscritti a un corso di laurea presso un'università estera, purché ovviamente sia ubicata in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. È la novità di quest'anno. Benissimo, grazie molte per l'intervento Luciano De Vico, naturalmente lo abbiamo costretto alla sintesi, ma per ulteriori dettagli ci sono appunto le pagine su questo tema sul Sole 24 Ore. Quindi, professor Cammelli, la grande raccomandazione alle mamme italiane: mandate fuori questi ragazzi comunque, a prescindere da una scelta di lavoro all'estero che può essere adottata negli anni futuri, ma sicuramente un'esperienza universitaria all'estero quanto conta anche per avere buone prospettive nel mercato del lavoro nel nostro paese. mi pare importantissima. Questa è una delle considerazioni che sottolineo con molta forza. È chiaro che se il ragazzo si affranca in qualche modo dalla famiglia, che non vuol dire perderla, vuol dire arricchirla, nel momento in cui dico rientra, si fa portatore di un'acquisizione, dico, di competenze, di capacità, di conoscenze linguistiche, eccetera, che possono davvero diventare domani molto importanti anche per il paese. Noi oggi abbiamo un saldo negativo da questo punto di vista, cioè abbiamo più studenti che studiano fuori di quanto non siano gli studenti stranieri che vengono in Italia. Ma è chiaro che se questo è un prezzo che paghiamo all'inizio, io sono convinto che nel lungo periodo di tempo, non dico immediatamente, ma nel tempo medio, tempo lungo, naturalmente questo diventerà una forza molto rilevante per il paese. D'altra parte anche il Nobel Pissarides, che è un Nobel per l'economia, consiglia in questo momento i giovani, particolarmente i giovani in una situazione come quella di crisi economica nella quale stiamo vivendo, a investire proprio di più sull'istruzione, perché questo evidentemente consentirà di più e meglio di affrontare i problemi che dovremo affrontare. E infatti è stato ospite del Festival dell'Economia di Trento qualche giorno fa il professor Pissarides. Allora, l'ultima raccomandazione la facciamo fare a Giuseppe Catalano, che ho stroncato prima brutalmente. Dovevamo concludere il nostro ragionamento sulle questioni legate all'ingresso nelle facoltà di medicina, ma magari anche una indicazione generale alle famiglie che ci ascoltano, professor Catalano, su cosa studiare, soprattutto dove studiare. La scelta anche della facoltà e della città dove si frequenta la facoltà è fondamentale. So che lei ci tiene molto a spiegarci questo aspetto. Sì, su medicina sarò molto rapido. Credo che la sfida importante cui il Ministero sta lavorando è che il test non solo sia unico, nel senso che le domande sono le stesse in tutte le università, ma sia unico su scala nazionale, per evitare a parità di valutazione che ci siano studenti che entrano con un punteggio più basso in alcune università e studenti che rimangono fuori con un punteggio più alto in altre università. Per quanto riguarda invece la scelta dell'università, sì, credo che sia importante comunicare agli studenti, alle famiglie, che quando scelgono un corso universitario non scelgono, non comprano, non votano, come dicono gli economisti, con i piedi, cioè spostandosi solo un'attività didattica nella sede in cui viene erogato formalmente il corso. Comprano, scelgono un periodo di vita in un contesto complesso, magari diverso e lontano da casa propria, in cui la crescita educativa avviene non solo attraverso l'interazione con l'università e con docenti prestigiosi, ma anche con i propri compagni, con la comunità che si crea in quell'università, col sistema di relazioni economiche e sociali che quella università ha col suo territorio e col mondo. Questo è un aspetto importante. Noi abbiamo troppo provincializzato il nostro sistema universitario in questi anni, partendo dalla illusione che l'erogazione locale di un corso sia università. Università è qualcosa di più articolato, e che non può essere confusa con la mera erogazione del corso di studio. Quindi bene ha fatto per questo anche la mamma di Verona, che ci ha raccontato prima la sua esperienza, a prendere in seria considerazione la questione un anno prima che sua figlia appunto facesse l'esame di maturità. Ma io spero e sono assolutamente sicura che queste discussioni partano in famiglia molto tempo prima appunto della maturità. Io vi devo purtroppo salutare, devo andare al mio appuntamento con l'INPS e le pillole che ci aiutano a conoscere le novità dell'ultima riforma delle pensioni. Questa settimana parliamo delle regole valide per quelli che vengono definiti lavori usuranti. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. I lavoratori che svolgono attività usuranti hanno conservato una sorta di bonus sotto forma di requisiti ridotti per il loro pensionamento. Quali sono i lavori considerati usuranti? I lavori considerati usuranti sono quelli espressamente considerati tali da un decreto legislativo che è diventato operativo alla fine di maggio 2011. Si tratta innanzitutto delle cosiddette attività particolarmente faticose e pesanti, come quelle svolte in gallerie, cave, miniere, ad alte temperature, in cassoni, in spazi ristretti o correlate all'amianto. Rientrano nella categoria anche quelle delle produzioni attraverso la catena di montaggio, o quelle degli autisti di mezzi pubblici. È considerato lavoro usurante anche quello notturno svolto per almeno 64 notti l'anno. Tutte queste attività danno titolo a ottenere la pensione con requisiti ridotti rispetto a quelli ordinari. Grazie a Federica Micardi, Luciano De Vico, Giuseppe Catalano e Andrea Cammelli per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. A tutti, buona giornata.